la versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, si sente, sì, perché ci ho avuto un collasso del microfono. Comunque sono le 16:07 primi e 38 secondi in diretta qui in questo inizio di settimana, lunedì 16 di ottobre. Il Presidente del Consiglio ha tenuto già la conferenza stampa per la manovra, ma troppo presto per darvi i primi commenti. Vi rinvio per questo a Sebastiano Barisoni, a Focus Economia, dopo le 5. E invece, grazie per l'ascolto, come sempre, in diretta o in podcast qui alla versione di Oscar. Torniamo a parlare, e io sono molto felice che ci sia un ospite in studio che torna a trovarci, perché abbiamo seguito questa vicenda fin da quando ci è stato possibile. È una vicenda che comincia 2 anni fa, è una vicenda di, tra virgolette, ecco, è anomalo doverla definire di coraggio civile, ma nel nostro paese è di coraggio civile, come vedremo. In realtà è semplicemente la coerenza a una linea di affermazione della legalità, ma in questo paese sembra quasi anomalo. Non solo una scelta coraggiosa che ha portato a delle indagini e ora porterà a una sentenza, ma anche una testimonianza, una vicenda sulla quale si è incardinata una battaglia che è di quelle a cui spesso ho invitato a dare sostegno pubblico ai nostri ascoltatori, cioè la battaglia per creare anche finalmente nel nostro paese una tutela normativa non solo nel pubblico ma anche nel privato, e vedremo quanto serva nel privato e quanto serva poi in particolare in quelle aziende private magari che sono quotate e quindi sono sottoposte a una disciplina di mercato, in teoria secondo le norme e secondo le vigilanze previste dall'ordinamento, ancora più forte, tranne che c'è un aspetto, quello di cui parleremo oggi, che invece non è stato colpevolmente considerato. Prima di entrare nel merito e presentarvi il nostro ospite, ho un vincolo con un ex compagno di liceo che mi chiede, e ne vale la pena di leggervi, tanto per restituirci alle cronache italiane, che cosa è avvenuto stamattina. Questo è il secondo figlio che aveva un appuntamento in motorizzazione a Torino per l'esame teorico della patente, aveva un appuntamento fissato alle 9:30 e c'è questo resoconto dello scambio di messaggi con la moglie del mio amico che accompagnava appunto il figlio. 9:38, tutto tranquillo, sembra che siano partite con gli esami precedenti in ritardo causa malfunzionamenti, ma comunque si aspetta. 11:18, sono in aula, è la mamma che parla, ma non sono ancora partite con l'esame perché i collegamenti non funzionano. 11:58, si attende. 12:38, parte l'esame. 13:13, escono dall'esame, ora si attendono i risultati. 13:53, pare che da Roma non abbiano ricevuto i dati dell'esame, forse si deve rifare. 14:15, caro il mio amico, io devo andare perché abbiamo l'altro figlio, mi devo occupare di lui, lascio qui, invece, colui che ha sostenuto l'esame. Mezz'ora fa, quando mi scriveva il mio amico, il primo figlio è ancora alla motorizzazione e con ogni probabilità dovrà ripetere l'esame, ma ancora non sapeva nulla. C'era un secondo turno che doveva iniziare l'esame alle 11:30 che ancora non sapeva nulla. Ecco, vi do una fotografia di quello che succede nella pubblica amministrazione italiana, perché ecco, è una fotografia. Io gli sono testimone del fatto che è tutto vero, c'ho in mano la lettera che mi ha mandato, e poi farò anche una telefonata alla motorizzazione di Torino per capire che cosa diavolo è successo. Però ciao, non è proprio una di quelle cose dalle quali si può avere l'idea che viviamo in un paese con condizioni accettabili. Non voglio generalizzare, sicuramente ci sarà una valida giustificazione, però il mio amico era con la testa contro il muro e la di lui moglie e quindi è saputo il figlio, perché dice: ma che cavolo di paese è questo? Allora, noi ci occupiamo oggi del fatto che c'è un libro che dovete leggere assolutamente, perché questo libro racconta la testimonianza, la vicenda, e poi si allarga al problema in generale che, come ho detto, si incardina su questa vicenda, ed è con noi l'autore di questo libro. Grazie di essere qui in studio, Andrea Franzoso. Grazie a voi, buon pomeriggio. Qualcuno si ricorderà, se mi segue, che lo abbiamo già avuto, perché questa è una vicenda che parte nel 2015. Il titolo del libro, però, che vi ripeterò più volte, che ha una prefazione di Gian Antonio Stella, è "C'è un prezzo da pagare se non si vuole avere un prezzo". Questo è il sottotitolo, ma il titolo è "Il disobbediente". Ripeto, c'è un prezzo da pagare se non si vuole avere un prezzo, il disobbediente, e sotto c'è anche un inciso che spiega tutto. È la storia di un presidente ladro, quello di una società che era quotata e quotata, di una folla di ignavi, cioè quelli che sanno ma non dicono nulla, e di un uomo libero, che invece a un certo punto dice: eh no, io so, è il mio mestiere, sono pagato per questo, lo scrivo nel report, e se il report nella società mi chiedono di scriverlo in un altro modo, io, sapete che c'è, mi assumo le mie responsabilità di corretto dipendente nell'interesse dell'azienda e dei suoi soci che tengono gli occhi chiusi, e oltretutto anche di coloro che sono i clienti, gli stakeholder di questa società. E allora sapete che c'è? Io vado dai carabinieri e faccio un esposto. Ed è esattamente questa l'origine di una indagine sulle spese per fini personali proprie della propria famiglia, utenze telefoniche, automobili, acquisti del presidente allora di Ferrovie Nord. Si attende la sentenza adesso per fine mese, il 28 di ottobre. In questo libro Andrea Franzoso scrive fin dall'inizio la storia e poi la battaglia, che diventa una battaglia non solo pubblica, perché quella è già una vicenda pubblica, perché un procedimento penale è una vicenda pubblica, ma che diventa una vicenda pubblica per incardinare su questa storia più che mai la necessità di un atto legislativo che manca nel nostro paese per consentire la tutela ai cosiddetti whistleblower. Chi sono i whistleblower? Sono quelli che usano il fischietto, cioè che segnalano che ci sono degli comportamenti impropri, delle illegalità nelle società, nel mondo del lavoro, eccetera, e che nel nostro paese non vengono tutelati, non hanno alcuna tutela, o meglio, ne hanno una parziale nel mondo pubblico, introdotta con la legge Severino, non ce n'è invece nel mondo delle aziende private. Questa vicenda, prima che io vi faccia la domanda per dire se volete telefonarci all'800240024, quante volte vi è capitato nella vostra vita professionale di avere a che fare o di imbattervi in illegalità? Come vi siete comportati? Perché la stragrande maggioranza di noi decide di voltarsi dall'altra parte? Lo sappiamo perché: per evitare guai e problemi, e magari perché si è deboli, e magari perché si temono le ritorsioni, e magari perché si diventa immediatamente indicati, come nella lingua italiana, dove non c'è l'equivalente al whistleblower, cioè del disobbediente civile, del testimone civile di legalità, autonomo e dal basso, perché la legalità si costruisce dal basso, non solo con le prescrizioni penali dall'alto. Non c'è una parola che sia positiva per identificarla, perché infatti siamo abituati a identificarlo come il delatore, capite che sono tutti sostantivi carichi di una condanna morale, che significa la repulsione dall'ambito a cui appartieni, perché sei venuto meno un codice, e il codice è quello di farsi i fatti propri, è quello dell'omertà, è quello di non mettersi nei guai su chi è potente e sta in alto. Questo è in sintesi il brodo di coltura di una illegalità che è molto diffusa nella società italiana, non appartiene solo alla politica. Quindi la mia domanda è: quando vi è capitato, se vi è capitato, che cosa vi ha fatto volgere lo sguardo altrove invece che fare come Andrea Franzoso e andare dai carabinieri? Fatemi fare un esempio. Noi stiamo ancora oggi, se non andranno in prescrizione più dei procedimenti penali sulle 12 banche italiane che sono andate gambe all'aria in questi anni, e quello che è evidente da tutto ciò che emerge dalle procure sulle 4 banche risolte nel novembre 2015, sulle 2 Veneto e così via, è che una pletora di dirigenti interni del credito, magari anche di ispettori della Banca d'Italia, avevano tutti gli elementi in mano per capire che si violava la legge nei crediti baciati, nel concedere credito senza garanzie, nel non mettere nei libri patrimoniali credito deteriorato quando era credito deteriorato, eppure lo apprendiamo solo quando sono andate a gambe all'aria dalle indagini penali. Perché? Stiamo parlando di un danno che solo quello sono 64 miliardi di euro fino a questo momento, come danno patrimoniale, risparmi bruciati e valori bruciati di titoli di quelle banche. Ecco, stiamo parlando di 64 miliardi di euro, cioè di una cifra incredibile. Eppure per anni, tranne rarissime eccezioni che si contano sulle dita di una mano, peraltro finita nei cassetti, nessuno ha segnalato niente. Pensate a qual è l'ammontare delle risorse, delle connivenze, delle appropriazioni in debiti, delle frodi che vengono messe in atto nel nostro paese, perché dal basso non abbiamo il fegato di fare quello che pensiamo di fare, ma non abbiamo il coraggio di fare. Ecco, Andrea, posso dirti nel ringraziarti che la cosa che mi ha colpito di più, ti chiederei di partire da questo, te l'ho già detto prima, sono all'inizio del libro, quando racconti della tua decisione, lo dici a tuo padre e a tua madre, sì, e loro hanno una reazione di quelle che io mi sono molto stupito che tu l'abbia descritta, cioè che reazione hanno avuto? L'hanno presa male, hanno avuto paura perché hanno temuto le conseguenze negative che avrei potuto subire per questa scelta. Io quando ho deciso di denunciare, ovviamente non l'ho detto a nessuno perché c'erano delle indagini in corso, quindi i miei genitori l'hanno appreso dai media. La sera in cui in TV venne data la notizia appunto che il presidente di Ferrovie Nord aveva ricevuto un avviso di garanzia, io venni chiamato mio padre che mi chiese conto di questa cosa. Io all'inizio non dissi che ero stato io, glielo dissi la mattina dopo, e la reazione fu dura. Soprattutto poi dopo, quando sono andato a incontrarlo, ho avuto una discussione molto accesa con lui. Addirittura lui disse una parola molto forte che mi ferì: mi pento dell'educazione che ti ho dato. Noi stiamo parlando, Andrea Franzoso, se non ve lo ricordate ma vi rinfresco la memoria, è stato ufficiale dei Carabinieri prima che di diventare poi un manager di Ferrovie Nord, quindi è un capitano dei Carabinieri, è stato, quindi non proprio un padre che dice una cosa simile a un figlio che è capitano dei Carabinieri, mi colpisce tanto. Sì, lui ovviamente usò queste parole molto forti che mi ferirono, non perché ci credeva, ma perché in qualche modo si sentiva colpevole di avermi educato a dei valori che oggi sembrano condannarmi alla marginalità. Mio padre è una persona delusa, disincantata, sfiduciata, non ha fiducia nella politica, molta poca nella magistratura, e la cosa che disse è: come pensi che andrà a finire? Secondo me finirà tutto quanto in niente, in prescrizione. Chi è che pagherà per tutto questo? Pagherai tu. Tu perderai il lavoro, magari. Sicuramente hai rovinato la carriera. In effetti è successo. Davvero. Cioè, che cari ascoltatori l'hanno messo nell'equivalente di un sottoscala a far nulla, quindi classico mobbing, per cui ciao lavoro. Certo, quindi lui, io capisco le sue paure. Lui quindi come padre si è sentito... come se lui non mi avesse saputo offrire, dare quel kit di sopravvivenza per vivere nel paese dei furbi. Le parole, lui continuò e disse: piglia sulle tue cose, vattene via, vattene in Canada, vattene in Inghilterra, vattene dove vuoi, non rimanere qui, perché l'Italia è un paese di furbi. Esattamente, lui disse così: l'Italia è un paese dei furbi, qui non vale la pena, qui sarai un emarginato, qui sarai un fallito. E queste parole molto dure mi colpirono, mi ferirono anche, però ho capito, ecco... Allora, per dirvi che insomma sono scelte di cui qui nessuno sta dicendo: carissimi a casa che ci ascoltate, che trovate in condizioni analoghe, siete dei pezzi di deiezione perché non fate cose analoghe. Qui si tratta addirittura di superare delle convinzioni che sono fortissime, innanzitutto nell'ambiente familiare a cui si appartiene, prima ancora che quello professionale. Un'altra cosa che mi ha colpito molto, molto, molto, molto, e che tu fai un esposto ai carabinieri, i carabinieri procedono, il maggiore dei carabinieri ti propone da subito tre strade. Sì. La prima è una cosa anonima. Sì. La seconda, troviamo una via di mezzo, cioè diciamo che fonti confidenziali ci dicono che il presidente, i documenti eccetera, ti chiamiamo come persona a conoscenza dei fatti, acquisiamo la testimonianza, ma potrai sempre dire che non c'entra. La terza, come se fosse proprio una cosa del tutto, mettiamola per pura teoria, è che fai un esposto e lo firmi. Mi ha molto colpito questa modalità, ma non mi ha colpito perché dico: un maggiore carabinieri non parla così. No, maggiore carabinieri, capisco che per ottenere gli elementi nel contesto italiano non possa probabilmente che metterla così, perché quello che gli interessa professionalmente e come tutore della legge è acquisire gli elementi. E quindi però ci arriva al terzo stadio, quello dell'esposto firmato. Mi ha colpito in una maniera, perché mi sono detto: certo, ma fa il suo dovere. Sbaglierei io a pensare che faccia male a proporre come prima cosa segnalazione anonima. Però è incredibile. Sì, è proprio così. E tu aggiungi poi che per via del fatto che l'organo di vigilanza a cui hai proposto tuo collega la relazione sui fatti, su quello che avevate capito, però capita che chi era alla testa dell'organo, dicendo: questa cosa non si può fare, va riscritta, avesse dei rapporti consolidati nel tempo con tanti ufficiali dei carabinieri, cioè è un brodo, diciamo così, di cultura in cui non sto parlando di connivenza sul compimento di reati, ma sulla costruzione di relazioni che rendono molto difficile a ciascuno fare il proprio dovere. Esatto, poi questa rete di relazioni era molto estesa, posso parlare anche di altre. anche se non sono legate, l'ho preciso, in maniera diretta a questo evento, però appunto, come dice lei, è un brodo in cui ci sono dentro tante relazioni, tante buone relazioni. Ci sono relazioni con le forze dell'ordine, ci sono relazioni con la magistratura. Il mio ex presidente disse delle parole veramente pesanti sui giudici, dicendo: "Beh, io li porto spesso fuori a pranzo, se vai fuori con un giudice, tanto sai che devi pagare tu." Sì, ma non paga solo. Mai. E ovviamente poi pagava la spesa, ma non solo, perché la società magari dà fior di soldi, esatto, ogni anno a a delle iniziative naturalmente anticorruzione poste in essere dai magistrati, che mandano le lettere e dice: "Ma ci darete il vostro contributo?" Lui tot decine di migliaia di euro, l'impresa le dà e dice: "In cambio non ci rompi le scatole", come ovvio. Ma per esempio, una cosa che mi colpì è che negli ultimi anni l'allora presidente del Tribunale di Milano, Livia Pomodoro, ricevette, non lei direttamente ovviamente, no, ma in maniera del tutto lecita, precisiamolo, per carità, no, perché... a favore di una onlus, di un'iniziativa benefica fondata da sua sorella qualche anno prima, lo Spazio Teatro Noma, ha ricevuto da Ferrovie Nord almeno 200.000 euro complessivamente. E tu scrivi nel libro: forse i magistrati sarebbe meglio che si astenessero, perché poi le imprese poi in cambio si aspettano. Naturalmente stiamo parlando, in questo caso, del tutto legittima, però è per capire che cosa spinge il responsabile dell'organo di vigilanza interno, quando si vede arrivare il rapporto, a dire: "Ma tu, voi siete matti qua dentro." Era il presidente, l'allora presidente del collegio sindacale. Del sindacale, sì, esattamente. Ecco, quindi voglio dire, questo, come vedete, cioè non ci nascondiamo dietro nessuna sottorappresentazione della... come devo dire, permeabilità della società italiana a questi meccanismi, che prima che collusivi di illecito, però sono meccanismi di compiacenza relazionale, ecco, chiamiamoli così, che però è ciò che poi, se uno si trova a dover dire: "No, io vado dalla polizia, dai carabinieri, procura", a frenarlo, questi dicono: "No, sei matto." Cioè, lei dice che ci sono ex appartenenti all'arma che hanno servito sotto di lei quando lei esercitava un comando, che gli hanno dato il traditore. Esattamente, perché una delle persone coinvolte in questa vicenda, che è stata sanzionata da Consob con una sanzione pecuniaria di 60.000 euro, appunto l'ex presidente del collegio sindacale, è una persona che intrattiene rapporti con ufficiali dell'arma, e spesso c'è anche uno scambio di favori. E quindi un maresciallo dei carabinieri che avevo chiamato per gli auguri di Natale un paio d'anni fa, persona amica, molto vicina a allora appunto quest'ex presidente del collegio sindacale, mi diede del traditore per aver appunto segnalato una persona tra virgolette amica dell'arma. Allora, adesso facciamo un passo all'atere di questa legge, per la quale più e più volte mi avete sentito in questi anni chiedere il sostegno pubblico di voi ascoltatori, insieme e in parallelo, perché è uno stesso ragionamento, mettere nel nostro ordinamento tutele chiare e forti al testimone civile dal basso, che costruisce dal basso legalità quando professionalmente viene a contatto con prove manifeste di atteggiamenti illeciti. Serve questa legge, e abbiamo fatto campagna tante volte da questa radio anche a favore del fatto che questo si collegasse all'equivalente di un Freedom of Information Act americano, cioè di una norma che codificasse nel nostro ordinamento la facoltà di accesso ai documenti pubblici, che nel nostro paese era discrezionalmente praticamente negata. Nel frattempo c'è stata la norma con un decreto Madia, sapete come la penso, io sono ipercritico di come quel decreto è stato modificato e attuato, perché ancora oggi la discrezionalità del silenzio opponibile è troppo vasta, e abbiamo numerose segnalazioni di colleghi giornalisti o di membri delle opposizioni nei governi, nelle giunte locali, che si vedono sistematicamente negato il diritto all'accesso dei dati pubblici. Sono due cose collegate, perché anche così si costruisce legalità. Se io non ho accesso ai documenti pubblici, come è ovvio, sia come cittadino, sia come quindi come stakeholder, sia come componente di un'assemblea, è ovvio che io vedo molto limitate le mie facoltà di poter segnalare eventuali illeciti. Però sul primo aspetto, cioè sulla norma a favore dei whistleblowers. In realtà in questi anni il Parlamento è andato avanti, c'è un testo che è uscito fuori dalla Camera di cui l'esame, speriamo che in questi pochi mesi tra legge elettorale e legge di bilancio ci sia davvero il tempo, è al Senato e proprio domani pomeriggio riprende il confronto su questo testo. E con noi per parlarne una delle persone che in Italia ne sa di più di normative a tutela comparate nei paesi avanzati di queste particolari figure di cui abbiamo bisogno, ripeto, ho fatto l'esempio prima delle banche, ma in ogni quotata è così, in ogni società privata ci vuole questa tutela, e cioè Nicoletta Parisi. Nicoletta Parisi è una consigliera dell'ANAC, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che si è occupata sistematicamente di questa questione. Buon pomeriggio e grazie di essersi reso disponibile di essere con noi. Grazie dottor Giannino, buon pomeriggio anche a lei e ai nostri ascoltatori. Allora, possiamo secondo lei di due cose nutrire speranza? La prima è che ce la facciano, secondo che il testo allo stato attuale, se non viene adulterato, è un testo che comunque dà sufficienti garanzie, per me il Freedom of Information Act non le dà, ma che almeno su questo ci mette in termini avanzati rispetto agli altri paesi, perché io ricordo che anche in Europa non è che sia poi così diffusa questa normativa, cioè tranne principi generali, in realtà tranne Irlanda e Gran Bretagna, che sono paesi di common law, noi abbiamo un esempio che non va bene, quello del Lussemburgo, che assolutamente non è da seguire, e poi guarda caso due ex paesi, ex sovietici, ex comunisti, voglio dire, dove lì il problema, come evidente, è la transizione alla democrazia, la trasparenza ha reso necessarie ed evidenti queste norme, altrove diciamo sonnecchiano un po'. Ma lei che dice, Parisi? Ma guardi, dottore, innanzitutto parto dalla seconda domanda perché l'aggancio è troppo ghiotto. C'è in realtà una bella legge nei Paesi Bassi che viene intitolata La Casa del Whistleblower. Io mi sono presa la briga di confrontarmi con questa legge per vedere quali erano i punti di forza e come si poteva pensare ad una nostra legislazione. Ora, è molto bella l'evocazione della casa del whistleblower, perché in realtà, come dice il Consiglio d'Europa, una normativa sul whistleblower deve essere accudente, cioè deve dare al segnalante l'impressione di essere in un ambiente sicuro in cui può permettersi di segnalare a viso aperto e non ricorrendo, lei l'ha messo molto bene in evidenza, non ricorrendo all'anonimato. Però confrontando la legge olandese e il disegno di legge che è in discussione al Senato adesso, io ho visto che noi non la chiamiamo casa, anzi non riusciamo a chiamarlo con un termine sintetico, perché il whistleblowing è un istituto che sta fuori dal nostro ordinamento culturalmente, e però i nostri contenuti non sono molto diversi dalla legge olandese. Questo mi conforta. Il nostro legislatore ha fatto un percorso lungo in questi anni, da un disegno di legge intestato all'onorevole Businarolo, che ha avuto questa buona iniziativa, ma era un disegno di legge abbastanza sintetico, poco protettivo. Siamo arrivati a una disciplina che secondo me ha dei buoni aspetti di contenuto sul fronte dell'elemento principale, che è la tutela del segnalante in una situazione in cui è chiaramente asimmetrica a vantaggio non del segnalante ma del segnalato, comunque dell'ente, perché noi dobbiamo prevedere una serie di tutela per le quali prima gli si garantisce l'anonimato, secondo più che l'anonimato, scusi mi permetta, no, più che l'anonimato la riservatezza, ha ragione, l'anonimato è ciò che va evitato, la riservatezza dell'identità del segnalante, esatto. Secondo, fase che parte contestualmente, la tutela rispetto ad atti ritorsivi, come è evidente, certo, che invece sono la regola, esattamente ciò che spinge i più di coloro che vengono a conoscenza diretta di atti illeciti dal non segnalarli, e poi terzo, naturalmente, a differenza di quello che si dice nella lingua italiana, della tutela, il contrario, cioè bisogna costruire poi un valore civile che dà pubblicità e premia e incentiva coloro che nelle aziende fanno una cosa di questo genere. Questo poi si fa anche con i contratti, devono essere i privati a farlo e così via, non è che ci vuole l'obbligo di legge, però voglio dire, sono tre gradini che entrambi concorrono a dare forza reale di un ordinamento alla tutela di chi si sente protagonista dell'obbligo, no? Del rispetto della legalità. Non si può pretendere che una persona Guardi, questo l'ha detto Franzoso in Senato la settimana scorsa. Non si può pretendere che una persona, un dipendente pubblico, un cittadino che lavora in un ente privato sia un eroe. Per fortuna gli eroi devono essere pochi e per questo simbolici. Si chiede semplicemente al cittadino di essere integro e al dipendente pubblico di assolvere con dignità ed onore i compiti che gli sono assegnati. Quindi è una cosa molto normale. Certo che se l'ambiente non dà incentivi, l'ambiente pubblico o privato non dà incentivi a segnalare, ma invece dà segnali di disincentivo, allora la situazione diventa problematica, come ci dice Andrea Franzoso, come ci dicono altri whistleblower. Guardi la vicenda del Lussemburgo che lei ha toccato. Il giudice anche d'appello non ha potuto fare altro che accertare la responsabilità per violazione di una norma di legge relativa alla circolazione dei segreti bancari, dicendo però che i due condannati appena sentita notare erano whistleblower perché si erano fatti carico dell'interesse pubblico. Ciò nonostante il giudice dice purtroppo non c'è una legge che li protegge e quindi mi tocca condannarli. Allora, siamo arrivati ad un assurdo che in uno stato di diritto chi si fa interprete di un valore giuridico viene poi perseguito. Allora, per far capire di chi stiamo parlando, nel caso lussemburghese è il caso di Antoine Deltour, un ex dipendente di una delle più grandi società mondiali di revisione, la PricewaterhouseCoopers, che appunto portò alla luce 3 anni fa uno scandalo molto molto molto rilevante, quello degli accordi fiscali di favore che il governo lussemburghese aveva in corso con oltre 240 multinazionali. Finito condannato, quindi per così dire non proprio tutele di quelle fantastiche e da seguire copiandole. Torniamo dopo le notizie sulla borsa e la pubblicità. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in studio. Con noi l'autore di questo libro che vi invito davvero a prendere e a leggere, Andrea Franzoso, Il Disobbediente, è il titolo del libro, Paper First è l'editore, Il Disobbediente. C'è un prezzo da pagare se non si vuole avere un prezzo, è la storia di un ex ufficiale dei Carabinieri che è giovanissimo manager a Ferrovie Nord, vede emergere appropriazioni indebite da parte del presidente della Ferrovia Nord e, malgrado il caloroso invito di tutti a girarsi dall'altra parte, va dai Carabinieri e nasce il procedimento di cui si attende la sentenza di primo grado. Vi abbiamo spiegato più volte, e da che cominciare dalla famiglia, i colleghi eccetera eccetera, l'atteggiamento che è quello, sono sicuro molti di voi conoscono, è quello di indurre tutti a dire ma dai, non cercarti guai. Però ciò che apprezzo Andrea Franzoso è di essersi messo così tanto in discussione, non solo aver perso il lavoro, la penultima volta che ci siamo visti era ancora alla ricerca di, e adesso ci spiegherà invece che cosa fa, ma soprattutto di essersi messo al servizio di questa campagna pubblica che è servita per andare avanti questo disegno di legge che speriamo venga approvato, perché ce n'è proprio bisogno. C'è una tutela un po' flebile per i dipendenti pubblici nella legge Severino, c'è bisogno di una norma generale che applichi a tutto il mondo del lavoro, anche privato, e in maniera rafforzata quanto più una società privata è grande o è quotata, cioè sottoposta a obblighi aggiuntivi. La tutela della disobbedienza civile, del testimone di legalità dal basso. Sentiamo un po' come la pensano alcuni di voi. Alessandro che ci chiama da Roma. Alessandro, prego. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buonasera. Guardi, non sempre poi si può denunciare. A volte io lavoro nella polizia locale di Roma. Sì. E nella mia attività di indagine, 6 anni fa, diciamo, mi sono imbattuto in una pratica abbastanza, che a me sembrava particolare, sembrava strana, cioè un municipio prende delle risorse da una legge regionale, prende un finanziamento per fare un campo di calciotto in un centro sportivo, il che è ampiamente regolare, ma quando vado a fare un controllo per altri motivi, lì in quel campo, in quel posto non ci poteva entrare neanche un campo di bocce. Quindi era chiaro che venivano chiesti dei finanziamenti, diciamo, in un modo strano, prima ancora di illegale. E quindi inizialmente, d'accordo con i miei superiori, mi chiedono di indagare. Evidentemente arriva ad un certo punto qualche input esterno di cui non sono mai venuto a conoscenza e da un giorno all'altro mi viene tolto l'incarico e vengo messo al semaforo. Quindi prima ancora di la riflessione dire... mi sembra automatica di che cosa gli è venuto in gola dal fegato. No, ma me lo hanno detto poi soltanto dicendomi sì, ma fuori da questa porta negherò sempre tutto. Il problema è che io non so cosa nascondeva, a cosa ero arrivato o a cosa potevo arrivare. Io l'ho sospettato, l'ho immaginato, ma in concreto no. Quindi in una situazione come quella tu ti trovi completamente isolato. Esattamente. Ma è, proprio, è proprio per questo che serve una norma, perché i tanti come lei che capiscono al volo, oltretutto lei vesteva una divisa, e veste una divisa, quindi lo sa ancora meglio del cittadino comune che magari non è tenuto a ne sapere neanche l'ABC dei codici civile e penale, però come vede lei, cari ascoltatori, io apprezzo la testimonianza di Alessandro che ci chiama da Roma, perché è l'inveramento di quello che diciamo, cioè non è una questione di cattiva volontà, non è vero che gli italiani ce l'hanno nel DNA in maniera atavica il comportamento illegale estraneo alla coesione spontanea alla legalità come taluni spesso o a volte raccontano, non è affatto vero. Il problema è che le istituzioni nascono spesso dalla superfetazione, dalla rappresentazione, e confermano a propria volta i difetti di atteggiamenti collusivi di branco. Questo è il punto, e nel nostro paese è singolare, non è vero che altrove non avviene come in Italia, il problema è che da noi bisogna approfittarne del fatto che vicende come queste ci consentano di rompere un soffitto di cristallo. Il soffitto di cristallo non è solo quello contro la parità di genere, è anche contro la disparità che la legalità ha all'interno della nostra società. Altro che di cristallo, è un soffitto d'acciaio a volte, a giudicare dalle tante vicende di voi che ci scrivete e ci testimoniate poi la vostra incazzatura, ecco, uso un termine un po' improprio. Matteo dalla provincia di Livorno, come la pensa Matteo? Buonasera, buonasera dottor Giannino. Io la penso nel 99, io sono un libero professionista, opero nel settore ambientale, nel 99 dovevo assistere delle importanti operazioni di smaltimento di rifiuti. Era appena iniziato un quadro normativo, si era reso disponibile un quadro normativo, era tutto abbastanza giovane. Sì. E mi ricordo che fui avvicinato dalla ditta che operava gli smaltimenti, siccome ero colui che decideva gli smaltimenti, tenga conto che nel 99 un camion di rifiuti contaminati viaggiava intorno ai 4-5 milioni a camion. E quindi decidere qualche camion più, qualche camion meno, lo dovevo decidere io, avevo questa potenzialità di arbitrare, e praticamente mi fu avvicinato perché insomma aumentassi il numero di questi, esatto, camion. Io invece gli dissi di no, anche perché erano dei soldi, gli dissi di no, e la domanda gli disse: ma perché no? Gli dissi: perché io ho iniziato a fare questo lavoro da 2 anni, se io adesso mi metto il cappello di quello che ha un prezzo, io fra 20 anni sarò quello che sarà riconosciuto per un prezzo. E infatti non questo mio approccio legale, corretto, ha pagato, perché ancora oggi il settore è un settore molto chiuso e sono riconosciuto come persona molto pulita, integerrima. Posso corretta. Chiederle una cosa? Beh, io apprezzo naturalmente il fatto che lei si sia astenuto, ma... Tanto non ha fatto il nome, ma ai suoi occhi, visto che continua a operare in quel settore, quell'impresa che faceva, che utilizzava questi artifici, no? Evidentemente sì, non li ha usati solo con lei, li usava da prima e così via. È un'impresa che continua a stare, tra virgolette, nel mercato? No, ah, ecco. No, anche perché allora, intanto la ditta non c'è più, il mercato, o meglio, insomma, si è tutelato con un quadro normativo molto ben definito e stringente, e devo dire che a oggi la stragrande maggioranza delle ditte che operano nel settore ambientale italiano sono iper attente. No, questo lo sappiamo perché ce ne occupiamo. L'attenzione alla compliance ambientale è salita, anche perché anche lì le procure hanno dovuto fare spesso strage, per così dire. Però detto questo, noi stiamo parlando del fatto solo, non solo di rifiutarsi, ma anche di compiere un passo in più, cioè l'atto della denuncia, della costruzione della legalità attraverso il presupposto con documenti alla mano, perché chi trasgredisce venga sanzionato e punito, che è proprio è il livello più alto che ti mette poi nel fuoco delle possibili ritorsioni. Perché, ripeto, che lavoro ti sei inventato dopo 2 anni, Andrea? Ma per un anno non ho trovato lavoro. Io ho mandato il mio curriculum in diverse aziende, ma nessuna mi ha mai risposto. Perché eri diventato il rompicoglio. Esattamente. e ho aperto partita IVA e ho fatto piccole collaborazioni con alcune associazioni impegnate nella lotta alla corruzione. Sono state le uniche che mi hanno coinvolto. Transparency International, per esempio. E adesso, ecco, qualche giorno fa mi è stato offerto un nuovo lavoro, però completamente diverso da quello che facevo prima. Sono molto contento perché collaborerò con lavorerò per il Fatto Quotidiano, per la nuova piattaforma televisione Loft. E a me tocca ringraziare i colleghi del Fatto Quotidiano, perché al di là di tutto, cari ascoltatori, non vi sfuggirà che la proposta viene comunque da un'impresa giornalistica, un'impresa editoriale, multimediale, ma editoriale, che apprezza, per così dire, queste battaglie di trasparenza. Ma quello che voglio sottolineare è che per la competenza tecnica del nostro Andrea Franzoso, imprese analoghe si sono guardate bene dal dire sei una risorsa preziosa. Questa è la faccenda su cui bisogna insistere. Il mondo privato c'ha tantissima strada da percorrere, perché la moda o la tendenza di dire che è tutta colpa della politica, quella Ferrovie Nord era una società in cui gli amministratori erano nominati dai partiti, tranne uno delle Ferrovie dello Stato, ma non c'è dubbio, quindi Regione Lombardia era presente lì ed era un meccanismo di quel tipo. Ma guardate che grandi gruppi privati, piccoli e medi, da questo punto di vista non sono troppo diversi da quelli pubblici. È inutile che ci raccontiamo storie. Io sono per il mercato, ma non mi fa velo di fronte agli occhi dire che il problema è solo nel pubblico. Purtroppo l'etica per molte aziende è solamente una facciata, è solamente l'etica è importante soltanto per una questione di reputazione. Sì, esatto, la corporate social responsibility, esatto, di cui poi fanno i rapporti annuali. Un po' ci si dà una spolverata sopra Infatti io devo fare su questo, appena torniamo dopo, abbiamo ancora una pausa però più breve della precedente, che è quella sul traffico, a Nicoletta Parisi fare una domanda proprio su questo, sulle società quotate e il testo di legge il cui esame speriamo finisca presto, ma che comunque riprende domani pomeriggio in Senato. Intanto strade. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati con l'autore di questo bellissimo libro, Il Disobbediente. Lui si chiama Andrea Franzoso, ex ufficiale dei Carabinieri, manager di Ferrovie Nord. Quando capisce l'entità e la sistematicità di utilizzo improprio dei fondi da parte del presidente, di fronte a una società che dice stai zitto, va dai Carabinieri. E intorno alla storia di Andrea Franzoso si dipana la necessità di dare tutele a chi come lui nel nostro paese ha il coraggio civile. Non dovrebbe essere coraggio, come giustamente ci ha detto Nicoletta Parisi. Non è un paese che considera eroe chi fa così, è un paese che ha un problema evidentemente diffuso di collusione all'illegalità. Però Nicoletta Parisi, la mia domanda è questa: io da sempre, facendo la radio di Confindustria e girando per territoriali, imprese e così via, da sempre imprenditori mi dicono, persone che io conosco, stimo e di cui conosco la correttezza, mi dicono sai Gianni, però è facile parlare, però molti di noi quando si tratta di spezzare qualcosa che è improprio in una catena di nostri fornitori, allora sai che lo puoi fare e conta solo la tua decisione. Ma se sei in settori regolamentati nei quali il vincere o partecipare a una gara è fondamentale per la continuità della tua richiesta, la tua attesa di fatturato, utili e occupazione, guarda che un conto è facile parlare, ma poi se fai l'eroe sei finito, perché in quelle gare non partecipi più. Ecco, posso dire le impressioni di alcune indagini in corso su gare d'appalto della Consip di troppo elevato ammontare, secondo me, portavano alla luce esattamente questo tipo di meccanismo, e cioè che gare di ammontare enormi, nazionali, alla fine avevano creato un circolo di imprese che per i suoi prerequisiti di partecipare a quelle gare erano sempre più ristretti e a cui era ben più facile poi fare offerte a pacchetto per le gare. Insomma, la costruzione di una tutela per del whistleblower è fatta anche però di regole, come il pubblico regolamenta il mercato, che non mettano il mercato nella condizione di credere che la legalità sia un lusso che non ci si può permettere, o sbaglio secondo lei? No, non sbaglio naturalmente, molto spesso io mi trovo d'accordo con lei, anche in altre occasioni, di altre trasmissioni su altri temi. Perché io ci avrei sicuramente, mi viene in mente una lista di 1000 imprenditori che direbbero Andrea Franzoso, sì, però se fosse stato da me e si fosse messo a sindacare su quello che magari per ammorbidire una gara la mia impresa fa verso alcuni degli ambiti di chi fa la gara, caro mio, cosa avrei dovuto dire? Che Andrea Franzoso mi fa un piacere, lo fa ai suoi dipendenti? Questa sarebbe l'obiezione che mi viene, e io ovviamente dico, ehi, al contrario, dovresti premiarlo Andrea Franzoso, sputtanare, dice, ma chi vuoi sputtanare? Poi io non partecipo più alle gare. Tragedia, perché io credo che con la legge questo, Andrea, non lo risolviamo. E però io ringrazio Nicoletta Parisi, che come poche si è dato da fare per questa causa. Io voglio dire solo che mi ha molto commosso la fine del libro, in cui ti fai l'elenco di tutti quelli in cui l'hai scritto. L'hai scritto per... E posso dire una cosa, mi piace molto che tu sia sincero e dica, dopo che dici tuo padre, dici, però l'ho scritto per me. È vero. E posso dire... Per me sei il simbolo di quello che dovrebbe essere questo paese. E avrai tanti difetti anche tu, avrai i tuoi elementi di stronzaggine, però io sono onorato di riaverlo avuto ospite. Grazie, grazie a te, ricordate, grazie il libro, Il Disobbediente. Appuntamento domani alle 8:15 con me e Luca Telese a 24 mattina, e poi pomeriggio alle 16 come tutti i pomeriggi alla versione di Oscar.